podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Comprendere un conflitto. L'Afghanistan, Clausewitz e la guerra di popolo. Di Andrea Russo. Da mesi l'inatteso scoppio del conflitto ucraino ha assorbito l'attenzione e le energie della società civile e della classe dirigente del nostro paese. Ma non possiamo dimenticare quello che avveniva assai più lontano, circa un anno e mezzo fa. Il 15 agosto del 2021 il sipario scendeva sullo scenario afghano. Dopo 20 anni di conflitto, si restituivano al mondo immagini in tutto simili a quelle che alcuni decenni prima avevano visto la conclusione dell'avventura americana in Indocina. Un anno dopo è opportuno interrogarci su cosa abbia condotto a un simile esito, nonostante i grandi sforzi compiuti, sia in termini di risorse umane che materiali, in questa travagliata regione del mondo. Gli elementi che hanno reso complessa la storia di questa missione sono ovviamente molteplici. Tuttavia, ad un'analisi ragionata, può venire in aiuto il pensiero offertoci dalla voce più autorevole della letteratura militare, quella del generale prussiano e irriducibile avversario di Napoleone, Karl von Clausewitz. Nel suo opus magnum, il Della guerra, pubblicato postumo in 3 volumi tra il 1832 e il 1834, il filosofo generale esamina un fenomeno quasi sconosciuto e anche per questo temuto agli albori della Restaurazione. La guerra di popolo, ciò che oggi chiameremmo più semplicemente insurrezione o ribellione. È la prima volta che si affrontano e si descrivono in modo sistematico i tratti di questo tipo di guerra, quali siano le peculiarità del modo di combatterla e quali presupposti servano affinché essa effettivamente si scateni. Sebbene il generale prussiano sia conscio del rischio sovversivo legato alla guerra di popolo, il suo obiettivo è indagare la natura dell'attività bellica in tutte le forme in cui essa si manifesta, dopo quasi 20 anni di guerre napoleoniche che, per prime, avevano restituito un ruolo militare alle masse popolari. Di un simile conflitto era stato il testimone diretto. L'accanita resistenza opposta dalla popolazione iberica alla dominazione francese tra il 1808 e il 1814. La parola guerriglia, letteralmente piccola guerra, compare per la prima volta proprio in questa campagna. Con quasi un secolo e mezzo di anticipo rispetto agli altri grandi teorici, nel capitolo 26esimo del 6° libro, Clausewitz descrive l'essenza cinetica del fenomeno. Per questo grande studioso la guerra di popolo è quella in cui la popolazione civile impugna le armi e lavora al pari di una fiamma che lentamente si propaghi. Nello stesso capitolo, poco oltre, affinché la guerra di popolo possa avere efficacia, Clausewitz elenca 5 condizioni indispensabili. Che la guerra sia attuata all'interno del paese, che essa non possa essere decisa mediante un unico disastro, che il teatro di guerra abbracci una considerevole estensione di territorio, che il carattere del popolo favorisca l'attuazione del provvedimento, che il paese sia molto frastagliato e poco accessibile, o a causa di montagne o di boschi e paludi, o della coltura del suolo. Clausewitz inoltre annota come una popolazione povera e pertanto avvezza alle durezze e alle privazioni, oltre che una densità abitativa scarsa, siano condizioni ottimali affinché la resistenza venga a trovarsi dappertutto e al contempo in nessun luogo. In questa azione prettamente logorante, gli obiettivi della resistenza popolare non devono essere le grandi aliquote delle armate avversarie, ma l'ossatura attraverso cui scorre la sua linfa logistica. I movimenti, le comunicazioni e i rifornimenti, già di loro difficoltosi, sono il bersaglio idoneo a paralizzare un grande esercito e impedirgli di operare efficacemente. Clausewitz sottolinea molto il carattere naturalmente asimmetrico del rapporto tra strategia e tattica nella guerra di popolo. Strategicamente, la resistenza contro un esercito invasore può avere solo un carattere difensivo. Tatticamente, il popolo in armi non deve mai assumere la difesa sul campo di battaglia. Sul terreno, l'esercito nemico lo spazzerebbe via. Ingaggiare dove e quando si preferisce, mai essere ingaggiati. Nella guerra di popolo, secondo Clausewitz, il centro di gravità dell'insurrezione risiede nell'opinione pubblica e nelle figure chiave che animano la rivolta popolare, in quei capi che, a metà tra il dirigente politico e il comandante militare, compattano la volontà degli insorti e la indirizzano verso un preciso fine. Il conflitto afghano recentemente conclusosi pone all'attenzione spunti di interessanti analogie tra l'analisi degli eventi e i requisiti individuati da Clausewitz per la buona riuscita di un'insurrezione. Il territorio afghano presenta una morfologia molto simile a quella del teatro insurrezionale descritto nel Della guerra. Un'area di ampia superficie, più che doppia rispetto a quella del nostro paese, che pone in relazione montagne impenetrabili alte oltre 5.000 metri, deserti sabbiosi e depressioni rocciose, dunque una sfida particolarmente ardua per chi vi intendesse avanzare anche se preparato. La dinamica del conflitto ha seguito spesso il canovaccio teorizzato anni addietro da Clausewitz. I talebani sono riusciti ad evitare di cadere nella trappola della grande battaglia di annientamento, ricercata a lungo dagli eserciti della coalizione. Gli insorti, vivi e morti, sono spesso rimasti fantasmi, frammentando la ritmica degli scontri in un numero infinito di costanti schermaglie, consci anche che a ogni caduto occidentale avrebbe pesato come un macigno sul morale di nazioni e governi. Per quasi 20 anni, il movimento degli studenti islamici ha resistito a una massiccia potenza di fuoco, subendo perdite che si sarebbero rivelate insostenibili per qualsiasi esercito professionista. Nonostante questo, non hanno desistito. Già da questi brevi cenni è possibile cogliere quanto l'assetto strategico del conflitto afghano ricalchi le condizioni teorizzate da Clausewitz in riferimento alla guerra di popolo. Alla stessa maniera, la capacità dei leader fondamentalisti di occultarsi e continuare la lotta dimostra ancora come, in una insurrezione, la figura del condottiero delle masse ricopra un ruolo determinante per gli esiti del conflitto. Si pensi al ruolo e alla lunga latitanza di comandanti come Osama Bin Laden, il Mullah Omar e Jalaluddin Haqqani, questi ultimi due deceduti per cause naturali, in libertà. Una maggiore comprensione della teoria strategica di Karl von Clausewitz forse avrebbe contribuito a un diverso corso degli eventi. Andrea Russo, laureato in scienze politiche all'Università Lewis con il massimo dei voti e lode, con una tesi in diritto internazionale sul conflitto del Kosovo. Laureando magistrale in relazioni internazionali presso l'Università di Bologna con una tesi in studi strategici sui sistemi d'arma difensivi. Durante il corso di laurea è stato selezionato per partecipare al NATO Model Event Crisis Management tenuto dall'Allied Command of Transformation della NATO. Ha conseguito un diploma in geopolitica e sicurezza globale presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI. Ha recentemente approfondito gli studi su antiterrorismo e controguerriglia in Israele. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.